Intanto chiarisco io questa cosa qui della controinformazione, di trovarmi come esponente rappresentante della controinformazione, che non è vero, mi piacerebbe aver avuto una rete così capillare come quella che la controinformazione ha avuto dagli anni 70. È molto bella l'impostazione, no, data da Aldo Giannuri a questo saggio, a raccontarci la controinformazione come una sorta di servizio segreto parallelo e soprattutto a mettere in risalto il contributo di tutti nel bene e nel male, perché ovviamente gli errori si fanno, voglio dire, molte volte ci si può anche sbagliare a dare un'informazione, però comunque il contributo di tutti i militanti di questa rete vastissima. Ne abbiamo avuto un esempio piccolino ieri sera nella diretta con Radio Popolare, quando ha chiamato un ascoltatore e ha detto: io mi ricordo che ero a Pordenone negli anni, non mi ricordo bene quali, e mi ricordo che un giovane sottotenente di nome Giusto Fioravanti aveva fatto eccetera eccetera. E ha detto: io ho informato subito, ho cercato di informare le reti di sinistra che succedeva questa cosa, cioè che Fioravanti stava rubando bombe e armi mentre faceva il militare. Questo era un esempio di quella rete capillare di controinformazione, di chi sente una cosa e la dice. E sono cose che l'informazione ufficiale molte volte non ha e che sicuramente mi piace, tutta questa rete capillare di informatori militari. Noi non siamo così, io non sono così, i tempi sono cambiati, non potremmo essere così. Noi facciamo un'altra cosa, io chiudo subito la parentesi su Blu Notte, che è il programma che faccio io. Noi, come dicevo ieri, siamo purtroppo molto più vicini a Piero Angela che agli investigatori della controinformazione. Noi siamo dei divulgatori, anche perché noi non scopriamo niente, non facciamo indagini da questo punto di vista, ci piacerebbe. In realtà occupiamo tutto il nostro tempo, e questo non è bello, cioè abbiamo già il nostro da fare a raccontare quello che già si sa e che di solito, che molte volte non viene raccontato. Quello che facciamo noi è semplicemente rendere conto di tante cose che sono state dette e che mettiamo lì. E molte di queste cose che sono state dette, e questo ci dice parecchio sullo stato dell'informazione adesso e di una possibile controinformazione, di una possibilità di controinformazione, molte delle cose che noi diciamo ci vengono dette dalla nostra rete capillare di informatori, come potevano essere appunto i militanti degli anni 70, che però sono le istituzioni, cioè gli atti della magistratura, i processi che si sono fatti, i magistrati, i giornali, i libri che sono stati stampati. Allora, questo la dice lunga, perché mentre magari negli anni 70 molte cose non si sapevano perché ci si trovava di fronte ad un'informazione addomesticata che diventava controinformazione nell'altro senso, nel senso della disinformazione, e ti dà una verità che non era vera, per esempio il caso della strage di Piazza Fontana, no? Con una verità confezionata e raccontata da alcuni giornalisti, poi scoperti organici ai servizi segreti. E mentre allora succedeva così, mentre le cose te le dovevi trovare, perché erano tenute sotto silenzio, perché venivano nascoste, poi dovevi raccontarle, elaborarle, analizzarle con gli strumenti che avevi, a volte sbagliando, ma comunque con gli strumenti del buon senso, indicando una direzione che più o meno poteva essere quella giusta. Adesso invece è diverso. Adesso la cosa contro cui devi combattere, più che una vera e propria disinformazione dall'altra parte, è probabilmente il silenzio. Il fatto che un sacco di cose vengono fatte e poi non vengono raccontate. Se non vengono raccontate non lo sa nessuno. Io faccio un esempio di controinformazione, sempre per rifarci al passato recentissimo, ieri sera. Siccome avevo letto il libro, avevo fatto la diretta con Radio Popolare, avevo in testa, no, questa cosa della controinformazione, ho sentito come un'operazione di controinformazione una fiction di Rai 1, pensate un po'. Quindi una fiction proprio, no? Quelle cose ingessate che sono gli sceneggiati televisivi della Rai, che era quella sulla morte di una ragazza uccisa dalla mafia che si chiama Graziella Campagna, che è stato difficilissimo mandare in onda, è stata bloccata almeno un paio di volte, è stata bloccata su richiesta della magistratura di Messina, che siccome sta facendo il processo ai presunti e assassini di Graziella Campagna, che sono due certi mafiosi, presunti assassini ma certi mafiosi, e ha pensato che questa fiction potesse essere di disturbo, e quindi poi è intervenuto una serie di persone, tra cui l'ex ministro della giustizia Mastella, che ha detto eccetera eccetera, ed è stata bloccata un po' di volte. Beh, mi dava proprio il sapore di una cosa, e siccome questa fiction poi è stata data perché c'è stato un movimento di opinione molto forte che ha fatto pressione e ha detto: stavolta non la potete bloccare, non potete continuare all'infinito questa storia qua, vogliamo sentircela raccontare in qualche maniera, anche in una maniera delicata e corretta come è stata fatta ieri sera. Beh, mi ha dato proprio l'impressione della controinformazione. È ben assurdo e paradossale che io mi senta contento e scambi messaggi con quegli altri che hanno fatto pressione per mandare in mondo una fiction, che io mi senta contento Come immagino si siano sentiti partecipi, cioè i militanti quando è uscito la strage di Stato, io mi sento altrettanto partecipe e militante per una fiction su Rai 1. Che significa che dall'altra parte gli ostacoli alla controinformazione sono diventati diversi rispetto a quello che succedeva negli anni 70. E poi io adesso dico altre due parole che mi fermo, magari intervengo ancora su se, insomma, se c'è tempo e spazio. E la cosa interessante, che le cose del privato già nulla, perché qui ovviamente sono tutte molto interessanti, la cosa particolarmente interessante che io trovo nelle cose che lui fa è di dargli un taglio abbastanza particolare. Uno era questo, no? Vedere la controinformazione, l'ho sempre visto come un'altra cosa, e cercare di analizzarla con i criteri dell'intelligence, del servizio segreto. Ma l'altra è anche chiedersi, dare degli spunti per chiedersi, va bene, ma dopo che cosa è successo? Perché la controinformazione dopo non l'abbiamo più vista così? Quali sono stati i difetti? Qui ce ne sono alcuni che sono stati indicati. Essere stata reticente nei confronti della parte politica da cui veniva espressa, cioè nei confronti della sinistra, del terrorismo, della lotta armata, eccetera. Una serie di errori che sono stati commessi. Il sopravvenire dopo, ovviamente, di una reazione alla controinformazione che è sempre la stessa. Se c'è qualche cosa che mi fa paura, io questa cosa la inquino, la annacquo, la allargo. A un certo punto, in tanti anni, vediamo che controinformazione diventa sinonimo di dietrologia, che un sacco di volte va bene, perché siamo stati abituati purtroppo dalla realtà che tante volte dietro a un fatto che ti sembra chiaro c'è un altro che non è così chiaro. Però ha anche un'accezione negativa, perché effettivamente puoi metterti a costruire ipotesi su qualunque cosa ci sia. Però allo stesso tempo mi ha fatto pensare sulla possibilità adesso di una controinformazione e su come si muove adesso una controinformazione, se adesso c'è una cosa del genere. E io ho pensato che sì, cioè, e ne ho visto svariati esempi. Mi rifaccio di nuovo un po' all'esempio di prima, se volete, alla lotta alla mafia. Esiste una controinformazione capillare adesso che si muove su altri mezzi, che sono le cosiddette nuove tecnologie. La radio è stata uno dei divulgatori della controinformazione quando, negli anni 70. Poi è arrivata la televisione, qualcuno di quelli che facevano controinformazione ha utilizzato lo stagno, per esempio. Poi adesso sono arrivate tutte le altre cose. Adesso esiste internet, esiste YouTube, esiste la possibilità di controinformare in maniera molto capillare. Ci sono delle realtà che fanno una controinformazione altrettanto pericolosa, altrettanto rischiosa, altrettanto difficile di quella degli anni 70, dove poi si moriva anche, no, per le cose che riuscivi a scoprire, che sono le realtà, per esempio, che si occupano di antimafia in Sicilia, in Calabria o a Napoli. Tantissime piccole televisioni, siti, blog, giornali, sia su carta che su internet, che si mettono lì e controinformano, perché il giornale ufficiale, l'informazione istituzionale non te le dice certe cose, e si informano rischiando di persone, come ha sempre fatto la controinformazione, con nomi e cognomi, a rischio di cose tremende, che sono prendersi un colpo di pistola, o altrettanto tremende da un altro punto di vista, che sono beccarsi una carriera devastante. Ecco, allora mi sono chiesto, esiste questa possibilità? Qual è il nemico adesso della controinformazione? Che cosa succede adesso che non è successo, per esempio, per la strage di Stato, o perlomeno che la strage di Stato, il libro, per esempio, è riuscito a scalfire, che la controinformazione negli anni 70 riusciva a scalfire? Secondo me un ispessimento del cosiddetto muro di gomma. Adesso è molto difficile suscitare scandalo con una controinformazione, provocare qualche cosa quando si dice qualcosa che è qualcosa di scottante. Gli esempi che citavo prima ne sono una realtà. Ci sono nomi e cognomi, ci sono fatti che poi però non producono né un'azione politica, come parlano molto pochi di politici, né un'azione giudiziaria, e muoiono lì. Producendo, qui chiudo, un'ultima cosa che è stata molto importante, secondo me, ed è stato uno degli effetti della controinformazione, producendo una crescita culturale e civile poi delle persone che arrivano a queste informazioni individualmente. Controinformazione ci ha reso molto meno ingenui, sicuramente ad un grande merito, di quello che avremmo potuto essere. Ci ha insegnato a pensare anche un po' di più, a capire, soprattutto ha svelato dei meccanismi che poi in qualche maniera ci sono diventati naturali. E qui mi vengono in mente, per esempio, che vengono citati qui, tutti i film del cinema politico degli anni 70, in cui potevi vedere, per esempio, indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e vedere una prassi poliziesca che c'era, che c'è, insomma, e un meccanismo, un modo di pensare che ti rendeva consapevole, che ti faceva leggere il giornale in un modo diverso, quando magari leggevi che erano successe certe cose. Adesso credo che la controinformazione stia facendo questo. Sarebbe bello ritornare a un periodo in cui, se mai c'è stata, naturalmente, la controinformazione provoca anche una reazione forte dall'altra parte, che significa gente che si arrabbia, ma anche contemporaneamente gente che si dimette da cariche politiche e che finisce in galera. Grazie.